la parola magica gradualità. 800 24 00 24. Moshe è un copyright personale. Io c'ho la S, noi possiamo, noi che abbiamo queste difettine di pronuncia, esatto, possiamo. Poi io sono perfetta. Buongiorno. Buona giornata a voi ed è un piacere, naturalmente. Grazie. Però adesso parliamo anche in coro col generale, come i gattini siamesi della. A lui piacerà molto questa immagine. Scatenarmi. Sei bello anche nella realtà, Alessandro. Ma nella guarda, foto di Facebook e nella realtà. Come convincerlo a tornare a cuore denaro. Manco di concentrazione, non ho volontà. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ma quando lei che ti staccate il frigidero, questo aspetti quest'inverno su che vedeste? Ti metti un brusco po' di birra per gli amici quando vengono a trovare stanchi morti e sue. E non ti pensi a roba che te da parte mi tiro e vei facevi me. Se te va mai ti do via caccia la via quando torna da campagna ti modici un po'. Ma cosa lei che ti racconti di mugge? Ma quando è lei l'igiene in cucina, cara Debora, è fondamentale, no? Vorrei vedere. Per la salute di tutta la famiglia ed è una faccenda che proprio non si può trascurare. Occorre saper maneggiare con cura gli alimenti, conservarli nel modo e nei tempi giusti. Ciascuno di noi si muove con una certa disinvoltura nella propria cucina. Ci sono azioni talmente quotidiane che eseguiamo quasi in automatico. Lavare le verdure, riscaldare una pietanza, cuocere un uovo. Non ci vuole, diciamo la verità, una grande abilità. Ma come dice il proverbio, la troppa confidenza fa cadere la riverenza e così ci dimentichiamo che ci sono comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza di quello che portiamo a tavola. Oggi è giorno di grande ripasso, intanto per sondare la vostra conoscenza provate a rispondere a questa domanda: qual è la temperatura giusta del frigorifero per assicurare la nostra sicurezza? Tra l'altro sapete qual è la temperatura del vostro? Perché da uno studio dell'Istituto Zooprofilattico di Padova sembra che la maggioranza delle famiglie italiane non tenga la temperatura del frigorifero alla temperatura corretta, rischiando così la proliferazione batterica. 800 24 00 24, andate a vedere la temperatura del vostro frigorifero se siete a casa e chiamateci. Mi stai già facendo venire l'agitazione perché non l'ho mai controllata, non vedo l'ora di andare a casa per vedere a che punto ho assegnato appunto il termostato, si chiama così anche quello secondo del frigorifero? Secondo me sì. Si chiamerà così. Allora, se tu ci porti a scuola di igiene oggi, cara mia Nicoletta, in questa prima parte, non puoi certo esserti dimenticata che invece alle 11.45 del giovedì ci aspetta un'altra scuola. È la scuola di risparmio, di investire informati. L'appuntamento di oggi è dedicato al tempo. Parleremo di investimenti di lungo periodo. Come sempre potete intervenire all'800 24 00 24 per le vostre domande, le vostre osservazioni sull'argomento e anche per raccontarci le vostre esperienze. Fate attenzione perché ci sarà anche il nostro domandone, apriremo la nostra libreria e quindi oltre a controllare il frigorifero tenete anche ben alzato il volume della radio. Ed entriamo in cucina, ti sei lavate le mani? Le mamme lo chiedono sempre ai bambini prima che si mettano a tavola, ma la raccomandazione naturalmente vale anche per i grandi, in modo particolare per chi si mette a cucinare, perché i microorganismi presenti sulla cute possono contaminare gli alimenti e quindi esporci a rischi più o meno seri. Ma non basta però aprire il rubinetto e passare le mani sotto il getto dell'acqua, perché anche questo gesto così semplice ha le sue regole e i suoi tempi, quindi non ci limitiamo a insaponare e strofinare i palmi, ma insistiamo sul dorso, tra le dita, nello spazio al di sotto delle unghie per almeno 40-60 secondi. Non sono pochi. Questa Allora, però teniamoci naturalmente pronti a rilavarcele tra un'operazione e l'altra, e non solo quando abbiamo terminato di cucinare. Queste, Deborah, sembrano raccomandazioni banali, inutili, ma i dati ci dicono che sull'igiene delle mani c'è ancora molto da fare. Nel frattempo però noi non stiamo con le mani in mano, ma andiamo subito a presentare l'ospite che oggi ci accompagnerà in cucina, resterà al nostro fianco per seguire tutte le operazioni di conservazione, preparazione e cottura degli alimenti, insomma per evitarci gli errori. Allora, salutiamo la dottoressa Maria Caramelli. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Buongiorno a voi. La dottoressa Caramelli, Deborah, è direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Buongiorno e complimenti. Bel territorio, intanto. Vero? Intanto. Dottoressa, nei paesi industrializzati ogni anno una persona su quattro si ammala per colpa del cibo. Verrebbe da pensare che a mangiare si rischia, però a rassicurarci ci pensa anche la saggezza di un vecchio detto, quello che non strozza ingrassa. Allora, lei che ne pensa? Da che parte sta? Troviamo una via di mezzo. Ma sicuramente mangiare è un'attività a rischio, come tutte le attività umane, un rischio che corriamo 3 volte al giorno. Però possiamo difenderci aumentando la nostra consapevolezza, informandoci sempre di più. Sicuramente il primo aspetto che ha sottolineato, quello dell'igiene, è la prima grande arma nei confronti delle contaminazioni batteriche. Molto spesso non si sottolinea abbastanza quello quanto è importante, perché noi in cucina siamo in un vero laboratorio, per cui chi prepara l'alimento deve avere le mani assolutamente pulite e un'igiene profonda di tutti gli attrezzi di laboratorio, quindi tutti gli utensili, i canovacci, i taglieri e così via. Veramente chi produce consuma è l'ultimo anello importantissimo di una catena di sicurezza. E poi parleremo naturalmente anche di come conservare gli alimenti. La prima domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori riguardava la temperatura del frigorifero, 800 24 00 24. La dottoressa Caramelli ci aiuterà anche a disporre gli alimenti nel frigorifero nel modo giusto, perché anche quello sembra facile, come sembra banale, no? Mi raccomando, metti le cose bene in frigorifero, mi raccomando, lavati le mani, però è lì che cade l'asino. È così bella, tra l'altro, quando è tutto disposto bene, no? Il frigorifero, bell'ordinato, questo bello, esatto, questo tripudio di colori con la frutta e la verdura, invece quando è un po' confuso un po' triste. Se volete mandarci la fotografia del vostro frigorifero, aprite, potete mandarcela, scattate, aprite e inviatecela. Allora, dottoressa Caramelli, al giovedì a Scuole Denari si va praticamente a misurare le conoscenze, parliamo di risparmio nella seconda parte, adesso di scuola di igiene. Allora proviamo a testare il nostro livello di conoscenze, partiamo da un momento molto delicato, la conservazione. Noi siamo tornati a casa, abbiamo fatto la spesa, dobbiamo riporre gli alimenti acquistati, quindi tocca dividerli tra frigorifero e dispensa. Vi diamo un elenco, vediamo in dove mettereste questi prodotti: miele, yogurt, banane, cipolla, mozzarella. 800 24 00 24, chiamate il nostro numero verde, potete dirci la temperatura del vostro frigorifero, qual è la temperatura ottimale e anche dove mettereste questi prodotti, in frigorifero o nella dispensa, quindi a temperatura ambiente. Dottoressa Caramelli, nell'attesa delle telefonate dei nostri ascoltatori, ma anche dei loro dubbi e come sempre dei loro preziosi consigli sulla conservazione, sulla cottura degli alimenti, sul loro utilizzo e riutilizzo, proviamo a guardare con altri occhi la nostra cucina e iniziamo a considerarla, come lei ci ha suggerito, un laboratorio, un ambiente ideale di diffusione dei batteri, ma come ha sottolineato e anticipato, anche di lotta ai batteri e alle contaminazioni. Però che se ne pensi, la cucina è il locale meno adatto per conservare il cibo, perché in cucina ci sono dei forti sbalzi di temperatura, pensiamo a quando accendiamo il forno oppure quando mettiamo a bollire l'acqua della pasta, no? E quindi la temperatura cade. Comunque, dottoressa Caramelli, è qui che si gioca la partita e quindi non ci resta che imparare bene le regole del gioco. Ce le ricordi lei? Sì, stiamo combattendo in fondo una battaglia contro le contaminazioni batteriche nella nostra cucina, però abbiamo delle armi, abbiamo delle strategie anche molto semplici. La prima, l'abbiamo già detta, è quella dell'igiene. La seconda è essere abili nella conservazione. Conservazione significa utilizzare prima di tutto molto bene il frigorifero, che è la nostra arma migliore. Per il frigorifero ci sono alcune regole, al di là della temperatura che affronteremo poi dopo, ma tutti gli alimenti hanno un posto giusto nel frigorifero. Il frigorifero non va riempito tutto affinché l'aria fredda possa circolare, deve esserci spazio tra un alimento e l'altro. ogni elemento è meglio che stia nel suo contenitore, che si faccia attenzione a che non colino dei liquidi. E soprattutto qui viene la prima grande regola da seguire sia nel frigo che fuori: la separazione tra alimenti crudi o cotti o pronti, insomma, per essere consumati, proprio per evitare quelle che sono chiamate le contaminazioni crociate, cioè evitare che dei microrganismi che sono presenti eventualmente nei primi, cioè nei cibi crudi, vengano trasferiti ad alimenti che poi non verranno poi più cotti, ad esempio non verranno più sottoposti a dei trattamenti per combattere i batteri. Quindi teniamo sempre molto separato il crudo dal cotto, dal pronto. Una carne cruda non va messa a contatto ad esempio con un'insalata che poi viene già preparata, che poi viene mangiata come tale, perché poi dopo la carne la cuoceremo e quindi elimineremo i batteri o le eventuali tossine. Quindi separazione addirittura poi quando siamo a preparare l'alimento, l'ideale sarebbe avere due taglieri di colori diversi, uno per gli alimenti da mangiare crudo e uno per gli alimenti da cuocere, perché è fondamentale non mettere a contatto gli alimenti. Quindi mi piacerebbe molto vedere la cucina della dottoressa Caramelli. Ah, pensavo posta? La mia, perché mi stava già guardando. Ci può stare il suo frigorifero, dottoressa Caramelli? Ci può postare il suo frigorifero? Ma terminata la puntata? Stasera alle 9. Che così prendiamo, quando prendiamo esempio. Il tema del tagliere è molto interessante, perché non ci avevo mai pensato. Mediamente usiamo sempre lo stesso, quindi due. Poi oltretutto, e di che materiale? I taglieri vanno cambiati spesso, oltretutto, soprattutto quelli di legno, perché sono pieni di fessure, formano delle specie di nicchia che quando si tagliano gli alimenti, proprio gli microrganismi trovano la nicchia umida, piccola, difficile da raggiungere quando si lava, e nel tagliere c'è una moltiplicazione molto veloce di batteri. Fanno festa, insomma, i batteri. E mi ha detto la mia amica Marcella che non si deve lavare in lavastoviglie il tagliere di legno, è corretto, dottoressa? Sì, sarebbe meglio lavarlo a mano, ma la cosa migliore è cambiarlo frequentemente, perché veramente diventa un nido di batteri. Ma forse chi batte il tagliere come nido di batteri è l'asciugamano da cucina, il canovaccio da cucina. Anche quello bisogna, ha evidenziato proprio che la concentrazione di batteri negli asciugamani da cucina è impressionante, quindi cambiarli il più spesso possibile. Adesso che torniamo in cucina guardiamo tutto con molto sospetto. Mi sono venuti dei trip che neanche vi racconto. 800 24 00 24, se avete dubbi, se avete dei consigli, chiamateci e intanto candidatevi per rispondere ai nostri quizzettoni. Dove andiamo? Andiamo da Vincenzo da Milano e sentiamo se ha la temperatura corretta del suo frigorifero in casa. Vincenzo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. La temperatura è 4 gradi. Ok. Mio frigorifero. Il mio frigorifero è di 4 gradi per far sì che non proliferino batteri in frigorifero. Adesso magari prendiamo appunti, poi rispondiamo a tutti alla fine. Sì. Dici vedere. Così? Li teniamo un po' sulle spine. Va, come vuoi. Dai, sì. Avremo anche Silvana dalla provincia di Monza. Quindi prendiamola, Silvana. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Mi chiedo scusa per la voce. È calato un po'? Ci vuole l'erisimo? Calato un po'. Vero? Sì. Ci vuole l'erisimo, ma solo quando va giù, non... L'echinacea no? L'echinacea solo quando il è il professor Fussi mi ha dato l'erisimo e a me ha funzionato. Silvana, sì. Eccoci. Allora, la temperatura del frigo, diciamo che per me va dai 2 ai 5 gradi massimi del frigorifero, mentre invece per il freezer dovrebbe essere un massimo di meno 18, che può andare da meno 18 a meno 20. Guarda, Silvana, già adesso la dottoressa Caramelli ci dirà se ha ragione Luca e ha ragione il nostro primo ascoltatore o Silvana. Vincenzo. Comunque Vincenzo, ma ha talmente, no? Si è sforzata talmente che per chiamare subito? Io un libro glielo darei, perché sì. Così la tiriamo su per la sua voce. Una porta aperta con me. Allora, dottoressa Caramelli, partiamo, quale dei due ascoltatori ha indovinato la risposta? Forse più corretto, più preciso è stato il primo. La temperatura corretta a cui conservare gli alimenti freschi è di 4 gradi, perché a questa temperatura quasi tutti i microrganismi rallentano il loro metabolismo, cioè o non si moltiplica, non fanno famiglia, perché tanto ci sono, ecco, l'obiettivo è bloccare che si moltiplichino in quantità enormi, e a quella temperatura lì né producono eventuali tossine pericolose per la salute. Quindi 4 gradi è la temperatura ideale. Questa è la media, chiaramente, perché ricordiamo che nel frigorifero la temperatura può variare di qualche grado. Al basso c'è l'area più fredda, poi man mano che si sale in piani fino ad arrivare ai superiori la temperatura sale un po', e poi nella porta abbiamo la temperatura decisamente meno fredda, quindi dobbiamo anche scegliere dove mettere i cibi a seconda del ripiano. Secondo lei quali sono gli errori più comuni nella disposizione degli alimenti in frigorifero? È meglio scegliere per le zone più fredde gli alimenti più deperibili, più fragili dal punto di vista della contaminazione microbiologica, quindi carne e pesce, metterli decisamente nelle zone basse che sono più fredde. Alcuni alimenti li teniamo in frigo non perché così è sicuro, ma perché sono più gradevoli. Pensiamo alle bibite, possiamo allora metterle tranquillamente nella porta, tanto l'importante è che rimanga fresco, ma non è che utilizziamo il frigo in quel momento per difenderci da una contaminazione batterica. Quindi bisogna pensare a qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Chiaramente per bloccare la moltiplicazione di batteri in tutti gli alimenti freschi e deperibili dobbiamo tenerli più nelle parti basse. Intanto cercate, vi state già candidando, siamo arrivati a casa, abbiamo fatto la spesa, dobbiamo dividere gli alimenti, vi abbiamo dato un elenco di alimenti, diteci dove li mettereste: miele, yogurt, banane, cipolle e mozzarella. Intanto noi continuiamo a girare nel nostro laboratorio e passiamo ai gesti, dottoressa Caramelli. Abbiamo sottolineato l'importanza del lavaggio delle mani. Abbiamo ricordato che i taglieri possono invitare a nozze i batteri e quindi vanno cambiati e anche lavati. Attenzione allo strofinaccio di cucina, ma procediamo, andiamo al lavaggio. Naturalmente alcuni alimenti vanno lavati, no? Prima di essere cotti, la verdura ad esempio, e l'argomento è di grande attualità, dottoressa Caramelli, perché basta digitare sul web, ci sono tantissimi consigli, tanti contributi sui forum e siti dedicati alla casa, però insomma c'è chi consiglia il lavaggio con bicarbonato, chi con ipoclorito di sodio, chi dice che l'acqua basti avanzi, chi invece dice vabbè faccio un lavaggio veloce, tanto poi la cottura mette tutto a posto. Dottoressa Caramelli, le verdure, qual è il modo più corretto per lavarle e soprattutto quali sono gli errori che possono anche magari impoverirle dal punto di vista organolettico? Ma noi parliamo dal punto di vista della sicurezza, cioè di evitare rischi da contaminazione di batteri sulla frutta e sulla verdura, che in effetti possono essere importanti. Chiaramente qui il buon senso deve darci l'indicazione, perché dipende se ci troviamo di fronte a delle frutta e verdura particolarmente sporca, oppure se ci troviamo di fronte a darla a persone particolarmente sensibili. Perché qui volevo ricordare una cosa importante, che le malattie trasmesse dagli alimenti, anche se sono una semplice gastroenterite da un batterio, sono più facili, più frequenti, colpiscono alcune persone, non sono malattie per tutti, per fortuna, nel senso che lo stesso batterio, un bambino piccolo, Escherichia coli di un determinato ceppo, un bambino sotto i 2-3 anni, o un grande anziano, o una persona in gravidanza, o una persona con il sistema immunocompetente alterato perché sta facendo una terapia di rischio, è più suscettibile a un inquinamento batterico. Quindi la prima cosa è, a seconda delle persone a cui diamo da mangiare, di approfondire l'igiene, nel senso che se siamo giovani e robusti, un'insalata lavata, un'insalata normale lavata con acqua è più che sufficiente. Certo. Bisogna vedere la situazione, la particolare situazione in cui ci si trova. Certo, va benissimo se uno lava con bicarbonato, va tutto bene, è anche una questione di percezione personale della sicurezza, ma un lavaggio veloce in condizioni normali dovrebbe essere più che sufficiente. Anche ad esempio nei confronti delle insalate già pronte. Ecco, bravo, che avevamo già in testa, infatti. Perché c'è sempre il dubbio. Saranno ben lavate, le passo un attimo sotto l'acqua, le metto un po' a bagno, come si dice, in ammollo. Guardi, un passaggio veloce è sempre più rassicurante, ma noi abbiamo fatto uno studio su tantissime, un numero molto importante di insalate pronte, devo dire che quelle vendute in Italia hanno dei livelli di igiene altissimi, abbiamo trovato veramente pochissime, se non quasi proprio residuali problemi su un numero molto grande di campioni di insalate. Perché noi facciamo le cose per bene. Sì. Perché questo vogliamo ricordarlo, no, dottoressa Caramelli? C'è una normativa che ci mette molto al sicuro. L'Italia è il paese che fa più controlli in assoluto di tutta l'Europa, e l'Europa è già il continente più sicuro rispetto al resto del globo. Noi abbiamo una quantità di controlli e di ispezioni che non è confrontabile con quello di tutto il mondo. E tutto, qualunque alimento, anche se arriva dall'estero, deve essere conforme alle nostre regole di sicurezza. Allora, noi adesso però dobbiamo andare a sentire, per essere precisini, ma... Ma la domandina magari di Luca la prendiamo al volo? Perché Luca da Milano, sì, perché noi adesso... Buongiorno Luca. Buongiorno. Senta, io volevo fare una domanda. Per un alimento abbastanza ambiguo, che viene conservato in una maniera totalmente diversa dal negoziante o dalla grande distribuzione, e invece da noi a casa. Le uova. Le uova, perché nei punti vendita le troviamo conservate a temperatura ambiente, mentre a casa le mettiamo in frigorifero. Allora, il tema è molto interessante e ricco. La dottoressa Caramelli ci dirà anche come conservarle, dove metterle, se è corretto conservarle in frigorifero nella parte della porta oppure magari tra i ripiani. Soprattutto anche arrivano delle domande, ma il guscio dell'uovo prima di essere utilizzato va lavato? Luca, resti con noi perché adesso andiamo a sentire i mercati e poi torniamo subito dopo insieme al nostro esperto, la dottoressa Caramelli, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria, Valle d'Aosta, tra poco. Vorrei incontrarti fra 100 anni, tu pensa al mondo fra 100 anni. Beh, 100 anni non passano tanto in fretta, direi. No, direi di no. Però in realtà poi ci troviamo a 50, 60, così in un batter d'occhio. Di certo è un investimento di lungo periodo per il cuore, come ci fa sognare questa canzone così romantica, ma anche per i denari. La variabile tempo è la protagonista di oggi per l'appuntamento di Investire Informati. Parleremo infatti delle opportunità e delle sfide offerte dagli investimenti di lungo periodo. Certo, non sempre i dati in questo senso sembrano incoraggianti. Pensate per esempio che la borsa di Milano negli ultimi 10 anni non è positiva, ha perso il 38%, anche se a guardare altre piazze finanziarie l'andamento invece è molto diverso. C'è qualcuna che addirittura in 10 anni ha fatto più 100%. Ecco perché sono in molti a sostenere che la pazienza sia una buona consigliera e che gli investimenti di lungo periodo siano consigliabili. Noi ne parleremo tra poco, a partire dalle 11.45, con un ospite che ci raggiungerà in studio, Andrea Pennacchi, amministratore delegato e direttore generale di UBI per America, tra poco. Noi riprendiamo il nostro corso di igiene alimentare per imparare le regole, per ripassarle anche, ricordare le attenzioni che ci mettono a riparo dai rischi. Siamo abituati a pensare che le intossicazioni siano causate soltanto da cibi consumati fuori casa oppure da alimenti avariati, però non è sempre così, perché il rischio si nasconde anche nelle nostre case. Pensate che negli Stati Uniti il 21% delle intossicazioni verificatesi tra il 2009 e il 2010 è dipeso da alimenti cucinati in casa. Allora oggi insieme alla dottoressa Maria Caramelli andiamo in cucina e passo dopo passo andiamo a scoprire le possibili trappole in cui possiamo imbatterci durante la preparazione e la conservazione degli alimenti. Luca da Milano è ancora in linea con noi perché dottoressa Caramelli le ha chiesto la ragione per cui le uova ad esempio nei punti vendita vengono vendute a temperatura ambiente, mentre a casa noi le conserviamo in frigorifero. Facciamo bene, vero dottoressa? Questo è vero, noi non le troviamo nel banco frigo, poi però è meglio tenerle in frigorifero, perché le uova più che altro patiscono gli sbalzi di temperatura, questo patiscono, perché in teoria noi potremmo anche non aver bisogno di un frigorifero. Le uova sapete che hanno una scadenza decisamente lunga, no? 28 giorni, anche. Quindi potremmo anche farne a meno, perlomeno nelle prime fasi. Però, visto che sappiamo che il freddo rallenta i fenomeni di degradazione dell'uovo, rallenta lo sviluppo dei microrganismi, è più saggio una volta giunti a casa insomma metterlo in frigo. questo ci, diciamo, ci tranquillizza dal punto di vista delle, di bloccare la moltiplicazione dei batteri, che comunque sappiamo essere sulle, sulla superficie delle uova, ci consente proprio anche una conservazione più igienica. C'è quel guscio lì che crea molti dubbi e sospetti, dottoressa Caramelli. Le uova, quelle che acquistiamo, le conserviamo in frigorifero, nel portellone del frigorifero, laddove c'è di solito lo spazio per le uova, ma nella loro confezione o le lasciamo nudarelle? Sì, c'è la posizione nel frigo per mettere le uova ed è importante metterle senza lavarle, cioè non bisogna, proprio per quello che diceva del guscio, il guscio è poroso. È poroso, però ha una leggerissima trasparente cuticola in superficie che protegge questi pori che poi mettono in comunicazione con l'interno dell'uovo, quindi se noi laviamo, sfreghiamo e poi le mettiamo in frigo e le consumiamo dopo qualche giorno, abbiamo asportato quella protezione, quindi questo non va fatto. È buono, come no. Si dice, perché noi abbiamo un'ascoltatrice, esatto, che ci scrive perché c'è chi ha il pollaio. Certo, vive in campagna e quindi chiaramente sono un po' più sporchine di quelle del supermercato, dottoressa, quindi vanno lavate prima di metterle in frigo, almeno queste? Si può in questo caso consigliare di passare con uno straccio umido, ad esempio, ma non lavare e quindi asportare le parti più grossolane di sporco, ma un lavaggio forte, come quello che dicevamo prima, per mani, asporta la protezione dell'uovo e fa sì che una contaminazione batterica successiva, che comunque se le uova poi vengono lasciate lì, i batteri sono dappertutto, sono sulle mani, nell'aria, sul piano in superficie, quindi questi ci sono, noi non lavoriamo mai in ambiente sterile. Se abbiamo tolto questa superficie protettiva, esponiamo l'uovo a una maggiore penetrazione di germi, quindi in genere si sconsiglia il lavaggio. Allora, 800 24 00 24, se lavate le uova, insomma, pensateci alla prossima volta. Panno umido. Possiamo salutare Massimo da Livorno? Ma certamente, lo sai che i toscani ci piacciono. Massimo, buongiorno. Buongiorno a voi e alla sua ospite. Allora, Massimo, miele, yogurt, banane, cipolla e mozzarella. Siamo andati a fare la spesa, adesso lei dove mette questi prodotti? Allora, andiamo a tagliare, allora, il miele fuori dal frigo. Sì. Lo yogurt nel frigo. Poi cosa c'era? Banane? Banane io le ho sempre messe fuori. Fuori. La cipolla? Fuori. La mozzarella? Dentro. Dentro. Che voto? Dottoressa Caramelli, ha disposto bene i suoi prodotti, Massimo da Livorno? Ha disposto benissimo. E quindi Massimo, un libro della libreria di Cuore Denari, poi gli chiederemo se Cuore Denari, ma dottoressa Caramelli, la sua voce era un po' in sospesa, ha risposto benissimo, ma o era un punto? Ma sulla mozzarella, se ci ha sentito qualche purista, ci dice, ma mozzarella appena fatta, mozzarella meravigliosa del sud Italia, appena fatta, andrebbe... conservata a temperatura ambiente. Andrebbe tenuta fuori. Perché poi viene quella goccia dentro, magnifica. Volevo, se è possibile, fare anche una domanda. La dottoressa. Ma certo, Massimo. Massimo, sei reintrufolato lì. Noi stavamo già sognando la mozzarella. Ci racconti, Massimo? Volevo sapere una cosa. Spesso e volentieri si sa che i latticini, quindi in particolare il formaggio, hanno una scadenza breve, quindi insomma bisogna consumarli abbastanza velocemente. Però può capitare spesso che all'esterno i formaggi possono presentare, magari dopo pochissimo tempo che li prendi, una piccolissima muffettina. Ora la mia domanda era questa muffettina ha già contaminato tutto il formaggio oppure basta asportarla e il formaggio è consumabile? Grazie Massimo. Dottoressa Caramelli, le muffe hanno questo vantaggio che quello che si vede è dov'è, e quindi se noi asportiamo, insomma, con un po' di margine la muffa, il resto del formaggio non è stato contaminato. Ma lei partiva giustamente dal discorso dell'etichetta, cioè è sostanziale rispettare quanto c'è scritto sull'etichetta, perché già oggi abbiamo dei latticini con scadenze molto prolungate, proprio perché la produzione va incontro anche a un tipo di vita molto frettoloso, complicato, quindi si è notato i latticini hanno tempi di scadenza sempre più lunghi. Quindi è importante non andare tanto oltre, cioè è molto importante importante, certo, usare i propri sensi, quindi in questo caso la vista, per vedere il cambiamento di colore, la consistenza, l'odore. E certo che se un prodotto è scaduto ieri e la temperatura di conservazione è stata rispettata, lo si può ancora consumare, ma però in linea di massima le date di scadenza vanno sempre rispettate. Questo però, dottoressa, mi aiuta a farle un'altra domanda. Noi cerchiamo, no, di buttare il meno possibile, i dati però ci dicono che nonostante questo molti ogni anno finiscono nei cassonetti tonnellate degli alimenti. A volte buttiamo l'alimento scaduto, quasi forse appena vediamo la data di scadenza, ma non sempre questa è una condanna alla pattumiera. Allora, ci aiuta a fare una distinzione tra i prodotti che riportano una scadenza perentoria da consumarsi entro e quelli su cui è scritto da consumarsi preferibilmente entro? Forse questa distinzione può aiutarci a fare delle scelte più oculate. Sì, consumarsi entro è una definizione per i prodotti freschi e conviene veramente attenersi strettamente all'indicazione, anche se consumare uno yogurt il giorno dopo la scadenza non succede non niente. Mette la nostra salute a rischio, ma non è più quello yogurt che il produttore ha garantito fino a quel giorno. Cioè, consumare entro significa che quel cibo è quello con le caratteristiche che vengono garantite. Dopo, ad esempio, l'esempio dello yogurt è perfetto, ma può valere per tante altre cose. Dopo, lo yogurt non ha più tutti quei batteri lattici vivi che vengono definiti garantiti, certo. Quindi fino a quel momento conviene attenersi all'indicazione. E se buttiamo tante cose, spesso perché compriamo di troppo, più, troppo. Oppure, sbagliato. Oppure, dottoressa Caramelli, anche perché noi abbiamo perso l'arte del riciclo e la ripassiamo con un paio di suggerimenti, ce li dà Marco Bianchi, il grande amico di Cuore Denari. Marco, ciao! Buongiorno ragazzi, come state? Noi benissimo, poi quando ci sentiamo... Quando ci chiami ragazze, figurati! Allora, buon anno! Buon anno! Tanto, Marco! Allora, io voglio ricordare il libro di Marco Bianchi. I libri di Marco Bianchi, l'ultimo, per noi sono diventate delle bibbie, ormai qualunque ricetta io faccia buona, le mie figlie mi dicono di Marco Bianchi, mamma mia, anche Deborah però. Senti Marco, divulgatore scientifico, autore di Io mi muovo 10 minuti per 30 giorni, esercizi e ricette per mantenersi in forma, ma per stare bene anche a tavola, per gustare. Marco, buttiamo anche perché non ricicliamo, ci dai due idee? Allora, di sicuro, io sono dell'idea che appunto dobbiamo riciclare il più possibile e nel mondo vegetale, che è quello che è più cucino, in effetti è anche facile farlo. Guardiamoci pure nella dispensa, proviamo a curiosare un po' e solitamente abbiamo magari un latte di soia aperto, per dire. Ecco, mi invento cene nelle quali uso la besciamella magari a base di soia che semplicemente andiamo ad addensare con dell'amido di mais e poi profumiamo con della noce moscata, sale e pepe, diventa veramente squisitissima. Ma allo stesso tempo quel latte di soia per qualche giorno aperto non succede niente e può diventare una buonissima cioccolata calda che poi in questo periodo male non fa, anzi. In alternativa ricordiamo che cuocendo ovviamente diamo ancora più freschezza in qualche modo e ci tuteliamo maggiormente molti alimenti, quindi anche un latte di soia utilizzato per un dolce diventa un grande aiuto in cucina. E non solo quello, perché mi piace molto fare magari brodi o passati nei quali sfrutto addirittura i gambi, non so, del broccolo piuttosto che anche la parte più coriacea della cipolla. Ecco, possiamo tranquillamente sfruttare il più possibile il mondo vegetale perché realmente regala tanto nel suo cuore, quindi all'interno, ma spesso e volentieri anche nella parte più dura, che è quella che protegge la pianta, però che a noi porta molto beneficio. Grazie Marco per grazie. Essere stato con noi, torna a trovarci, ma qui in studio ti vogliamo. Intanto ti aspettiamo, noi ringraziamo anche la dottoressa Caramelli per questi suggerimenti preziosissimi. Dobbiamo torneremo fare una puntata solo sulla carne, direi, vero? Carne, pesce, surgelati. Ottimo. Dottoressa Caramelli, appuntamento alla prossima anche con la dottoressa. Grazie, buongiorno a tutti. Buona giornata. Adesso facciamo la cartella perché andiamo a scuola di risparmio, intanto esatto. Andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, poi preparatevi tutti in classe. Cuore e denari. E torniamo insieme dopo le indicazioni per il traffico. È giunto il momento di aprire la nostra scuola di risparmio. Le vacanze di Natale sono terminate e noi riprendiamo la nostra rubrica Investire Informati. È un percorso che, lo ricordiamo, abbiamo iniziato alla fine del 2014 per tutto il mese di dicembre, che si sta snodando lungo ogni giovedì, con il quale stiamo approfondendo con i nostri ospiti i temi che sono molto cari ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici: il risparmio e gli strumenti, le modalità giuste per risparmiare. Ogni settimana una società, un'organizzazione si alternano al nostro microfono per aiutarci a capire le dinamiche, che sono spesso complesse. Basti vedere cosa sta succedendo stamattina in borsa sul mercato valutario dopo le decisioni che arrivano dalla Svizzera. Degli strumenti di investimento: fondi, bot, BTP, PAC, obbligazioni, conti di deposito, ne abbiamo tantissimi. Abbiamo iniziato l'anno con le indicazioni della Consob per proteggere il piccolo risparmiatore. In questo secondo appuntamento del 2015 parliamo invece di tempo e di investimenti di lungo periodo. Investire informati. Ti racconto qualche curiosità, Nicoletta. Sai che abbiamo parlato dell'Argentina qualche volta, è andata di nuovo in default, in mezza bancarotta, non paga gli interessi sui suoi titoli di Stato in circolazione. Bene, nonostante questo, nel 2014 l'indice di borsa argentino è stato il migliore in assoluto del mondo, ha guadagnato il 56,62%. A volte i numeri dei mercati ci lasciano un po' disorientati, e un altro dato che ci lascia perplessi è quello che prende in considerazione le performance delle borse su una lunghezza di 10 anni. In questa speciale classifica, chi è il peggiore in assoluto di indice di borsa? Dimmelo tu. Quello di Milano, il signor FTSE MIB fa meno 38%, preceduto solo da Atene, meno 70%, e Cipro meno 91. Pensa un po'. Insomma, nel lungo periodo la nostra borsa ha perso il 38%. Dai, 6 dato... più l'ho preso, no? Hai preso 7. Dai. Sei nato per l'impegno. Commenteremo questi numeri con il nostro ospite di oggi, ma affronteremo un po' proprio a 360 gradi tutta la questione tempo e quanto è importante questo fattore nell'investimento. Andrea Pennacchia, amministratore delegato, direttore generale di Ubipra America SGR, benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno. E buon anno soprattutto. Grazie. Visto che parliamo di tempo, dobbiamo fare gli auguri di buon anno. Buoni anni. Buoni anni, speriamo che ne abbiate tantissimi davanti a voi. 800 24 00 24, numero verde, componetelo. Provate a pensare all'ultima scelta di investimento che avete fatto e che magari avete condiviso con il vostro consulente: un titolo di Stato, un portafoglio azionario, una polizza assicurativa. Mettete da parte per un attimo la consistenza del gruzzolo e tutte le altre caratteristiche tecniche appunto del prodotto. Calcolate solo la lunghezza in termini di tempo. Scrivetecela, condividetela con noi appunto al 349 238 6666, oppure chiamate, diteci in base a che cosa avete scelto questo lasso di tempo e chi ve l'ha consigliato: per un obiettivo legato al guadagno, alla tranquillità futura, alla sostenibilità della vostra propensione al risparmio, pensiamo ad un premio, ad una rata mensile. Naturalmente siamo qui anche per rispondere a tutte le vostre domande, ma un domandone ve lo faremo anche noi, e per il primo che risponderà, come sempre, apriremo la libreria di Cuore Denari. Quindi prestate attenzione anche a questa prima parte, perché daremo delle informazioni sulle quali poi vi faremo il domandone nella seconda parte. Allora, Andrea Pennacchia, abbiamo veramente un bel tema questa mattina. Quando parliamo di lungo periodo, perché stressiamo molto i nostri ascoltatori sull'avere pazienza nel non fare un investimento per andare a vedere subito i risultati, il rendimento che questo investimento registra nel giro di un giorno, di una settimana o di un mese. Ma quando ci riferiamo al lungo periodo, a quanti anni facciamo riferimento? È una quantità che cambia in base all'età di chi decide di farlo, questo investimento? Ma allora, guarda Deborah, il tema è molto importante, come dicevi tu, è un concetto sul quale si parla molto spesso. Di solito quando ci si riferisce a un orizzonte temporale di lungo periodo, si ha in mente un orizzonte di 5-10 anni. Questo è quello che di solito anche, diciamo, nella prassi, nella normalità, viene utilizzato come orizzonte di lungo periodo. Per essere più precisi, di solito si dice 1-2 due anni è un orizzonte di breve. 2-5 è un orizzonte di medio periodo, almeno 5-10 anni è un orizzonte di lungo periodo. Non si firma, ma già un ascoltatore l'ha scritto, 5 anni, ha fatto immediatamente il blitz a Cuore Denari. Ecco, la cosa che però penso sia molto importante, secondo me è utile anche come riflessione per i nostri ascoltatori, è che questo è solo un limite, diciamo, di riferimento, un'indicazione di riferimento, perché in realtà i nostri progetti di vita, noi dobbiamo pensare a noi e alla nostra vita, i nostri progetti di vita hanno degli orizzonti temporali molto più lunghi. Pensiamo ad esempio all'acquisto della casa, l'educazione dei nostri figli, l'apertura anche ad esempio di un'attività commerciale che può richiedere un periodo di risparmio molto lungo. Ecco, se pensiamo ai nostri investimenti come uno strumento, un mezzo per raggiungere gli obiettivi di lungo periodo della nostra vita, ecco che l'orizzonte temporale può essere anche di 20-30 anni. Certo. Ecco, questo è secondo me un punto molto importante. Poi tu mi chiedevi se è diverso in funzione dell'età, no? Dell'età delle persone. Allora, sicuramente qui cerco di esemplificare al massimo. Sicuramente perché ci sono io, capisci? Perché mi ha guardato diritto negli occhi e ha detto cerco di semplificare, così va bene, faccio allora, io per da dispetto testa. Poi gli chiederemo se dispone bene gli alimenti nella dispensa e nel frigorifero. Sono molto preoccupato sugli alimenti. Dorma preoccupato. L'età dell'investitore fa la differenza. Sì, certo. Perché ad esempio un investitore di 30 anni ha sicuramente, diciamo, degli obiettivi e probabilmente anche un orizzonte, una prospettiva davanti a sé diversa di un investitore di 60 anni. Questo deriva dal fatto che sostanzialmente ha un orizzonte anche di vita diversa. Pensiamo, un trentenne ha ad esempio un obiettivo che può essere la pensione integrativa, certo, che è un investimento di 20-30 anni. Però quello che è importante dire con riferimento al cambio, diciamo, della diversa età di una persona, è che quello che è veramente diverso è la propensione al rischio. Cioè l'orizzonte temporale, ok, di lungo periodo vuol dire 5-10 anni, può essere anche di più. La cosa importante però, quando si ha un'età diversa, 30, 40, 50, 60 o 70, è che la propensione al rischio e quindi la rischiosità dell'investimento che dobbiamo fare è molto diversa. Certo. Di solito questa si riduce nel tempo, dico solitamente perché dipende ovviamente dal singolo individuo. Ne abbiamo dato una definizione, abbiamo cercato di capire quale può essere l'orizzonte di lungo periodo per un trentenne o per un sessantenne, ma in termini generali, per un risparmiatore, perché è importante pensare in una logica di lungo periodo ogni qualvolta mette mano al portafoglio per fare un piccolo investimento e pensare al proprio risparmio? Allora, le ragioni sono molte. Allora, proviamo a raggrupparle concettualmente. Allora, ci sono delle ragioni tecniche, sono quelle che vengono affrontate più comunemente, che sono legate ad alcuni meccanismi finanziari che magari poi proveremo magari anche ad approfondire, certo, come il rendimento composto, la diversificazione e così via. Ci sono poi un secondo gruppo di ragioni, che sono le ragioni di metodo, cioè proiettarsi su un orizzonte di lungo periodo ci aiuta a risparmiare un passo alla volta. Questo metodo di risparmio, che poi si traduce in investimento, è fondamentale ed è un qualcosa che dispone di strumenti ad hoc nella finanza, che sono i piani di accumulo, i PAC. C'è poi una terza cosa importante, che a me personalmente sta a cuore forse anche più delle altre due, cioè c'è una serie di motivazioni attinenti alla sfera personale, alla sfera sociale di ognuno di noi. Come dicevo, noi non siamo delle macchine, noi viviamo per la nostra famiglia, per i nostri obiettivi, e quindi i progetti di vita che seguono il ciclo della nostra vita devono essere coerenti con l'orizzonte temporale degli investimenti che servono a realizzarli. Però, perché sappiamo anche che si vive sempre di più. No? Sì, questa è una grande buona notizia. Assolutamente, viviamo Nicoletta. Sempre di più, cerchiamo, speriamo di aggiungere non solo anni di vita ma qualità. Quegli anni, ecco, ma le due cose sono correlate. Secondo me, tra l'altro, è assolutamente così, e tra l'altro io credo che noi forse non siamo neanche pienamente consapevoli di quanto questa notizia sia buona, nel senso che in questi decenni l'aspettativa di vita è cresciuta in modo continuo e continua a crescere. Proviamo a fare un esempio che a me sta a cuore, perché a volte i demografi aiutano da questo punto di vista. Allora, oggi è il 15 gennaio. Sì. Io sono sicuro che oggi sarà una giornata felicissima per molte persone nel mondo, perché nasceranno tanti bambini. Ecco, è curioso pensare che questi bambini che nasceranno una giornata di oggi avranno una possibilità su 6 di avere gli occhi azzurri, una su 20 di essere biondi, ma avranno una probabilità su 3 di diventare centenari. quindi non novantenni, centenari. Quindi questo vuol dire, in altri termini, che per i bambini che nasceranno oggi, in questa giornata di questa nostra trasmissione, anche sarà il 14 e il 16 di gennaio, anche quelli ci allarghiamo, diventare centenari sarà molto più facile che nascere con gli occhi azzurri o capelli biondi, ovviamente naturali. Questo anche per dire che quando ci troviamo a commentare da questi microfoni le riforme pensionistiche degli ultimi anni, io mi rendo conto che per gli esodati non sono state delle gran buone notizie, ma sono state delle riforme necessarie a parare anche un po' i conti del sistema previdenziale pubblico, proprio perché siamo tutti più vecchi. Insomma, di tutto questo continueremo a parlare nella seconda parte del programma. Ci sono anche tanti temi legati non solo alle trasformazioni demografiche, ma anche quelli della nostra società. Andrea Pennacchia qui per rispondere a tutte le vostre domande. Occhio al domandone, a tra poco. Cuore e denari. Tutti noi dovremmo preoccuparci del futuro, perché è lì che passeremo il resto della nostra vita. Charles Kettering. E con questa frase siamo tornati a Cuore e Denari, nello spazio di Investire Informati, proprio con una frase di uno dei più grandi inventori del Novecento. Andrea Pennacchia, non lei naturalmente, Charles Kettering, però chissà mai, ma nel futuro, che Andrea Pennacchia non si metta magari a studiare qualche formula magica per triplicare i rendimenti dei nostri investimenti. In realtà non è questo il modo giusto in cui dobbiamo guardare a queste piccole cifre che appunto faticosamente riusciamo a mettere da parte periodicamente. Pennacchia, lo ricordo, amministratore delegato e direttore generale di UBI Pramerica. Però so che le sta molto a cuore la frase di Kettering, appunto, che abbiamo appena messo esatto a disposizione dei nostri ascoltatori. Ci dice molto anche dei nostri denari. Assolutamente, io amo questa frase perché in realtà sono convinto personalmente che si debba guardare al futuro con grande fiducia, e in realtà questa frase trasmette, io credo, un profondo senso di ottimismo, anche perché detta da un inventore ha un valore ancora maggiore. Un inventore guarda le cose che oggi ancora non esistono e che possono essere realizzate in futuro, e quindi a me personalmente dà un senso di opportunità, cioè di tutte le cose belle, meravigliose che possono essere fatte nel futuro. Ecco perché guardare oggi e pensare oggi al futuro è molto importante, secondo me è molto bello. E allora, per rimarcare il fatto che siamo rientrati nella nostra scuola di risparmio con questa bella citazione, ricordiamo anche la nostra sigla, che è bellissima. Investire informati. 800 24 00 24, vi ricordo anche la nostra convocazione di oggi. Provate a pensare all'ultima scelta di risparmio e di investimento che avete fatto e che magari avete condiviso con il vostro consulente: un titolo di Stato, un portafoglio azionario, una polizza assicurativa. Che lasso di tempo avete di fronte a voi? Per quanto tempo avete intenzione di mantenere immobilizzato questo denaro e con quale obiettivo? 800 24 00 24 per naturalmente esprimere il vostro pensiero. Volevo però anche chiedere ad Andrea Pennacchia, perché poi sì, manteniamo magari anche la nostra pazienza, il nostro denaro in uno strumento di lungo periodo, poi arrivano giornate come quella di oggi in cui la banca centrale svizzera dice: sai che c'è, avevo ancorato il rapporto di cambio fra euro e franco, oggi svincolo. Una decisione che magari a noi profani, insomma, facciamo anche un po' fatica a comprenderla, perché sono decisioni di politica monetaria molto complesse e che però provocano questi movimenti di borsa molto accentuati e che magari movimentano anche il nostro portafoglio. Ecco che lì non resistiamo alla tentazione di andare a controllare quello che succede, no? È così, è così. Tra l'altro questa notizia, che è recentissima, proprio mentre ero in taxi per venire qui, c'è stato questo annuncio, era completamente in attesa sul mercato. E questo è quello che accade poi in questi casi: ci sono delle impennate di volatilità sul mercato. In questo caso il franco svizzero, come tu dicevi prima, ha avuto un apprezzamento molto forte, molto violento nel corso della mattinata. E quello che succede in questi casi, visto che la Svizzera è un paese esportatore, quindi è danneggiata nelle aziende esportatrici da un incremento, diciamo, del valore del franco svizzero, società come Nestlé o come anche altre società importanti hanno avuto una grossa perdita. C'è anche da dire una cosa: la situazione è molto mista, quindi in questi casi non bisogna mai fare scelte avventate, perché ovviamente bisogna sempre guardare alle cose con molta freddezza, con molto distacco, facendosi anche ovviamente consigliare. Tra l'altro questo evento, questo poi lo vedremo nei prossimi giorni, rafforza la probabilità che il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi possa magari il 22 di gennaio spingere e a questo punto portare finalmente a questo quantitative easing con l'acquisto di titoli di Stato. Quindi paradossalmente una notizia come questa potrebbe anche rafforzare le aspettative di una ripresa dei mercati. Comunque, insomma, dopo lo spaesamento iniziale pare che adesso i mercati si stiano riassestando di nuovo. Nella prima parte non abbiamo completato il discorso che stavamo facendo, dottor Pennacchia. Parlavamo delle profonde trasformazioni demografiche che la nostra società sta vivendo. Vedo che è anche un tema che ha generato molto dibattito fra i nostri ascoltatori che stanno esprimendo i loro commenti su questo, anche al 349-238-6666. Dal punto di vista sociale, invece, le trasformazioni che colpiscono di più e che poi hanno a che fare anche con le logiche di investimento, quali sono? Ma allora sono in realtà veramente molte, perché abbiamo commentato prima questo fatto che la nostra vita sta diventando sempre più lunga nel tempo, ma questa situazione si innesta in un contesto di profondo cambiamento. Lo viviamo tutti quanti noi giorno per giorno, un cambiamento che riguarda il mercato del lavoro, il mercato della previdenza, il mercato della sanità, in prospettiva anche potrebbe impattare il mercato il settore dell'istruzione. Ecco, tutti questi sono temi chiave per lo sviluppo del nostro paese, quindi noi dobbiamo prendere, come dire, consapevolezza di questi cambiamenti. Dico questo perché io credo che il cambiamento profondo in cui si inserisce, come dire, la nostra vita e quindi anche i nostri investimenti vada preso in modo positivo. Dobbiamo prendere coscienza che alcune cose stanno cambiando e dobbiamo fare, secondo me, fondamentalmente tre cose. Dobbiamo, da un lato, utilizzare al meglio quello che già abbiamo, il nostro patrimonio. In secondo luogo, dobbiamo cercare di costruire riserve per il futuro, e quindi il risparmio, l'importanza del risparmio. E infine dobbiamo cercare di investire in modo efficiente ed efficace nel tempo, e questo è l'importanza dell'investimento nel lungo periodo. In questo terzo punto vale la pena ribadire che chiaramente non ci sono delle regole che valgono per tutti, ma ognuno ha il suo profilo, per cui evitiamo anche il solito errore di guardare quello che fa il nostro vicino di casa, il nostro cugino, il nostro parente, perché magari quella scelta di investimento lì applicata a noi avrebbe succede in tante cose. Pensa all'attività sportiva, quella, quando dicevamo, cucita su misura per delle terapie farmacologiche. Uno abbiamo dice, parlato a lungo del ha fatto bene, lo prendo pure io. Quindi dobbiamo... il frigorifero è inutile che cerchi di sapere come io dispongo la mia lattuga e le mie uova, Nicoletta, perché tanto tu hai delle cose diverse di dentro. È vero, la lattuga non ce l'ho, in effetti. Allora, a parte tutti gli scherzi, 800 24 00 24. Attenzione, fra un po' andiamo con il domandone, ma prima vorremmo andare sul concreto delle scelte di risparmio e di investimento e come possono queste generare delle soddisfazioni per i piccoli risparmiatori nel lungo periodo e quali sono le opportunità offerte dal lungo periodo all'investitore, al risparmiatore investitore. Per fare questo cammino concreto le do questa domanda, Pennacchia, le offro un commento di un'ascoltatrice che è Angela da Roma, che più concreta di così non potrebbe essere. Buongiorno Angela, benvenuta. Grazie, buongiorno, sempre un piacere ascoltarvi. Grazie. Allora, premesso che io sono una casinara distratta, roba varia, eccetera eccetera, allora io ho due nipotine mezzo indiane, perché mio figlio disoccupato, incosciente, ha lasciato l'Inghilterra 5 anni fa e è andato a finire sull'Himalaya. Vabbè, a parte questo, ha preso e ha sposato questa indiana, perciò morto di fame, ok, con un'altra morta di fame. Comunque, grazie alle mie risorse, diciamo, Angela, si campano. Però allora io sono molto Angela, molto certo che lei è la diplomazia, non l'ha incontrata in tempi recenti. Io sono un ariete, perciò sono impulsiva, sono molto seccata da questa cosa. Però queste due nipotine. Però dal cuore grande, vero, esatto, Angela? Queste due nipotine. Due nipotine che sono bellissime, che veramente sono due cose mai viste, di una bellezza unica, proprio perché miste, va bene, che naturalmente io sono molto preoccupata. Allora vorrei, appunto, io dei soldi li vorrei investire, cioè dall'inizio proprio per il loro futuro, che ne so, fino a 20 anni. Adesso una c'ha 4 anni, l'altra, la piccolina, c'ha 7 mesi. Qual è la cosa migliore proprio per iniziare? Allora Angela, si può iniziare intanto con piccole cifre. Io non so se 100 euro al mese per ogni nipotina può essere una cifra dignitosa, dottor Pennacchia, sufficiente per fare in modo che Angela sostenga, guardi, appunto, e pensi già al futuro di queste bambine. Intanto la signora Angela in realtà sta ragionando in maniera molto ordinata e con grande chiarezza, quindi io le faccio i miei complimenti, perché lei sta identificando in questo momento un suo bisogno ben preciso, cioè che è quello di supportare in qualche modo i suoi nipoti, e questo ha un valore enorme, perché lei sta, come dire, in qualche modo definendo un obiettivo, lo sta posizionando nel tempo. Io adesso non so quanto hanno i suoi nipoti, ma se fossero appena nati, 4 anni e 7 mesi. Ok, quindi diciamo che sono dei bambini piccoli sui quali si può ragionare su un piano di investimento di lungo periodo, e quindi su ad esempio un orizzonte di 20 anni, di 15-20 anni. Ed è importante in questi casi, proprio per questa esigenza che lei sta evidenziando, sfruttare i meccanismi di accumulo. Ci sono i piani di accumulo, che sono delle forme molto sane di risparmio. Più che utilizzare un dato al mese, a volte è utile utilizzare anche un dato al giorno, cioè 5 euro al giorno sono 150 euro al mese. Sì. Però 5 euro al giorno sicuramente sembrano più facili da risparmiare rispetto a 150 euro al mese. Questo è un qualcosa che noi sentiamo internamente ognuno di noi, ma noi l'abbiamo anche come società verificato con degli studi che facciamo ovviamente sul comportamento dei risparmiatori. Ecco, 5 euro al mese investiti su un orizzonte di 20 anni, ovviamente le do dei, come dire, delle indicazioni di carattere, diciamo, un po' generale, però ecco, può essere un'idea sicuramente, possono diventare in 20 anni un importo importante per l'istruzione, ad esempio, dei propri nipoti. Ad esempio, un investimento che possa rendere il 4%, poi ragioneremo anche sugli spunti che Deborah avevi dato durante la trasmissione, un investimento al 4% con un risparmio mensile di 150 euro, quindi 5 euro al giorno, può portare a risparmiare 35.000 euro, che in realtà però per l'effetto di questo 4% diventano 55.000 euro, una cifra che può essere, diciamo, molto importante per l'istruzione di due ed bambini. È un rendimento ragionevole che nel lungo periodo appunto si può ottenere, no? E deve essere anche questo un tema importante, un obiettivo, certo, di rendimento ragionevole, sobrio, mi verrebbe da dire, non pensare di moltiplicare il proprio investimento. Assolutamente. Allora il consiglio che io do è duplice. Allora, da un lato, quando si fanno queste scelte, sempre comunque consigliarsi con il proprio specialista, con il proprio consulente finanziario. Questo perché la signora ha affrontato un tema molto concreto, con un obiettivo molto chiaro nella sua mente. Quindi questo facilita, esatto, anche il consulente nell'aiutare a raggiungere questo obiettivo. È un obiettivo molto importante, quindi non può, certo, essere, diciamo, frutto di un investimento rischioso. Non deve assolutamente essere. Cioè non è andata lì dicendo, sai che ti dico, c'ho questa cifra, che cosa posso farci? No, l'obiettivo è quello, di conseguenza c'è lo strumento di investimento più adeguato e la grande chiarezza anche nella relazione appunto con il consulente. Abbiamo terminato quindi il ragionamento per la nostra ascoltatrice. Sì, direi questo, e assolutamente il piano di accumulo in questo caso mi sembra una buona soluzione. Allora, io direi che prima di andare al nostro prossimo ragionamento con Penna e anche ascoltatore, che è Francesco, che lo teniamo lì un attimo, facciamo il domandone. Dai, perché sennò qua non diamo più i libri di denari. Domandone. Allora, la sigla di Rischia Tutto appunto naturalmente ci introduce al nostro domandone. Non so, visto che lei ha già fatto tutto il ragionamento poco fa, Pennacchia, proprio sul tema che voleva essere il tema centrato per il nostro quizzettone, vuole farla lei la domanda? Ma allora, la domanda potrebbe essere sul piano di accumulo, su che cos'è un piano di accumulo, e quindi diciamo quali sono le sue principali caratteristiche, i vantaggi che può portare. Esatto, magari adesso non abbiamo tutto questo tempo, se ci dite già quella che ritenete che sia la caratteristica più importante del PAC, del piano di accumulo, ci accontentiamo. E se proprio volete strafare oggi, esagerare, esatto, diteci anche se vi ha incuriosito questa personalità, se conoscete almeno una delle invenzioni di Charles Kettering. Se ci rispondete anche a questa domanda, vi diamo ben due libri oggi. Proprio non badiamo, ci allarghiamo. 800 24 00 24 è il nostro numero verde per candidarvi. Intanto sentiamo Francesco da Rieti con un'altra domanda. Francesco, buongiorno. Buongiorno, buona giornata a voi. Ci dica tutto. Allora, diciamo fine epoca Berlusconi, inizio Monti, o acquistai un BTP trentennale. Non si può dire che non abbia scelto un timing molto preciso, come si suol dire. Sì, molto tecnico. Allora, questo BTP attualmente con uno spread a 130 e acquistato a 560 mi porta un capital gain attualmente di 16.000 euro. Eccolo. E non se lo vuole portare a casa, Francesco? Questo, il domandone lo faccio io. La tentazione di vendere è tanta. Allora, Francesco, le due cedole semestrali. Però Francesco, mi scusi adesso, io non è che voglio essere un po', perché poi questo magari domande le non è che vogliamo farle i conti in tasca. Uno che investe in un BTP trentennale lo fa perché magari vuole mettere lì quei soldini e immobilizzarli per un determinato periodo di tempo, non lo fa con una logica un po' speculativa. Invece lei ha visto inaspettatamente questo guadagno e dice: sai che c'è? Ancora in essere. Sì, no, infatti ho capito. Allora, Francesco, sentiamo cosa ne pensa Pennacchia, perché noi quando parliamo di lungo periodo generalmente siamo abituati a pensare all'investimento azionario, alle borse, Andrea, certo. Pennacchia. E per il mercato obbligazionario valgono le stesse regole, dobbiamo avere pazienza, oppure quando capitano poi queste magiche situazioni? Qui c'è un detto in finanza che dice che nessuno è diventato povero prendendo profitto, quindi è un detto che... io penso sia molto saggio. Vedi che anche in finanza si danno da fare. Senti, vedi. Allora, è chiaro che però quando c'è un investimento che sta presentando una importante plusvalenza e quando si pensa di voler realizzare questa plusvalenza che si è realizzata, bisogna anche pensare al reinvestimento. Quindi è vero che in questo momento il nostro ascoltatore Francesco ha in portafoglio un titolo che presenta ovviamente delle caratteristiche molto interessanti, che sono oggi irripetibili sul mercato, è un titolo di lungo periodo. Ecco che in questo caso il problema del reinvestimento si presenterebbe in modo molto serio. Oggi noi sappiamo che i BTP ventennali sono sotto il 2%, se andiamo... Il decennale è 1,7%. Sì, abbiamo delle situazioni ovviamente più difficili da un punto di vista dell'investitore obbligazionario. Quindi in questi casi quello che si può fare è smobilizzare parzialmente magari la posizione, quindi prendendo comunque un po' di profitto, perché questo... voglio dire, rappresenta comunque un elemento che può essere anche legato a degli obiettivi personali, al fatto che una persona vuole sentirsi più tranquilla, più sicura, e anche per, come dire, consolidare questo guadagno, e tenendo presente però che si presenterà il problema del reinvestimento di questo prodotto. Quindi in parte io prenderei profitto, ma in parte forse resterei investito. Allora, Andrea Pennacchia, noi abbiamo preparato tanti argomenti, ma la trasmissione è volata, non so che cosa sia successo, ci è sfuggita di mano. Nel frattempo credo che ci fosse anche la risposta di Gino dalla provincia di Padova, da Padova, che voleva darci la sua riflessione sul tema del piano d'accumulo, ma non facciamo in tempo a farlo intervenire. Ha però una risposta corretta, per cui certamente apriremo la libreria di Cuore Denari per accontentarlo, visto che abbiamo promesso il libro. Pennacchia, allora io tengo da parte la scaletta nella parte che non abbiamo naturalmente affrontato. Tra un mesetto ci rivediamo e torniamo a svelare ai nostri ascoltatori tutti i segreti del lungo periodo. Con molto piacere. E del modo anche di darsi metodo e di avere pazienza naturalmente in questo lungo periodo. Grazie per essere stato con noi. Grazie, buona giornata. Investire informati torna giovedì prossimo, Cuore e Denari invece torna domani. Abbiate pazienza, torna domani alle 11. Lo so che scalpitate, dovete aspettare fino a domani. Buona giornata.